Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Parole come echo chamber e polarizzazione sono oggi sulla bocca di tutti, in particolare in relazione alla circolazione, diciamo così, selettiva delle informazioni sui social network e al cosiddetto problema delle fake news. Ma quali sono i social, lasciatemi dire, maggiormente colpevoli di questi fenomeni, o i cui algoritmi accentuano queste dinamiche e quali invece magari si dimostrano neutrali? Lo chiediamo a Walter Quattrociocchi, coordinatore del laboratorio Data Science and Complexity all'Università Ca' Foscari di Venezia e vero e proprio pioniere dello studio in questa chiave dei social. Quattrociocchi fu il primo a identificare i meccanismi alla base del successo della disinformazione sulla rete. Negli anni è stato più volte nostro ospite, anzi permettetemi per una volta un po' di autocompiacimento, perché credo che fummo con Smart City tra i primi a parlarne di questi fenomeni nel febbraio 2016, quindi quando il tema non era poi così caldo. Buonasera Walter Quattrociocchi, bentornato. Buonasera, confermo che ci fu una delle prime interviste. Ecco, meno male, meno male che conferma. Allora Quattrociocchi, voi state conducendo uno studio, tra poche settimane ne pubblicherete i risultati, ed è sulla base di questo lavoro che oggi siete in grado di rispondere alla domanda di apertura. Prima di rispondere però, ci ricordi brevemente il significato di due o tre parole chiave per comprendere tutta questa tematica? Confirmation bias o pregiudizio di conferma, echo chamber e polarizzazione. Sì, allora, pregiudizio di conferma è quella tendenza innata dell'essere umano ad acquisire le informazioni che aderiscono alla propria visione del mondo. Mentre la polarizzazione è quella tendenza nostra ad accanirci pro o contro gli argomenti che vediamo. Quindi, online. L'atteggiamento del tifoso proprio. L'atteggiamento del tifoso, esattamente. Mentre dall'altra, diciamo, le echo chamber o casse di risonanza sono un effetto, diciamo, che nasce dalla combinazione di questi due fenomeni, ovvero trovo una grandissima quantità di informazioni online, quindi posso selezionare l'informazione che meglio aderisce al mio modo di vedere, e come la trovo io la trovano anche altre persone, e cominciando con l'interazione online nasce un sodalizio virtuale con altre persone che in qualche modo si strutturano in una comunità intorno ad una narrativa condivisa. Questo fa sì che in qualche modo si senta soltanto l'eco della propria voce, per questo certo caso di risonanza o echo chamber. Molto chiaro, molto chiaro. Allora, veniamo al vostro lavoro. Per cominciare, quali social avete preso in considerazione? Allora, abbiamo preso in considerazione Facebook, Twitter, Gab, che sarebbe il social dove si sfoga l'estrema destra americana, e Reddit, che è invece un social di utilizzo più mite, un pochino più neutrale, interessato ad argomenti un pochino più di tecnologia, di meme. Sì. Insomma, il social dei nerd, ecco, benissimo, esatto. Molto chiaro così. Ecco, non tutti i social vi hanno consentito, diciamo, di fare questa analisi. No, diciamo che già pure con Facebook è stato un problema, perché diciamo da quando c'è stato la scusa dello scandalo di Cambridge Analytica è stata una scusa per le grandi corporation di limitare l'accesso ai dati anche a fini di ricerca. Instagram in particolare proprio non li concede proprio, ecco. Non c'è possibilità. E per questo non fa parte, diciamo, del numero di social preso in considerazione. Allora, esatto. Che tipo di indagini avete fatto? Perché voi non avete potuto mettere le mani nell'algoritmo, no? Usato da questi social per presentare i contenuti una volta che uno ci entra. Sì, diciamo che fondamentalmente abbiamo dato una definizione formale algoritmica di echo chamber, perché se ne è parlato tanto, ma mancava una definizione formale, quindi il nostro sforzo è stato di dare una definizione, e poi l'abbiamo testata, proprio algoritmica, quindi una definizione matematica, l'abbiamo testata su varie piattaforme per vedere se effettivamente c'erano delle differenze in vari social media. L'avevamo già fatto in passato su social network tipo Twitter, Facebook e YouTube, ma sempre lì c'era la storia dell'algoritmo che ti promuove i contenuti. In questo caso abbiamo preso invece altre due piattaforme, Gab e Reddit, come controparte per vedere come funzionano le cose laddove l'algoritmo di proposta dei contenuti è assente. D'accordo, quindi non c'è un filtro di questo genere. Ecco, quali sono le conclusioni a questo punto? Le conclusioni sono, diciamo, ovviamente quasi naturali, quasi intuitive, no? Diciamo, dove c'è l'algoritmo di proposta dei contenuti che seleziona, quindi l'algoritmo di feed, abbiamo una maggiore tendenza alla polarizzazione. In particolare, se confrontiamo gli stessi contenuti che vengono fruiti su Facebook e su Reddit, cioè le notizie, come vengono consumate, l'effetto che fanno a livello di polarizzazione degli utenti, troviamo che su Reddit la polarizzazione non c'è, su Facebook invece è dominante praticamente. Dominante addirittura. Ecco, per chiarire, a che tipo di esigenza potrebbe rispondere un algoritmo che accentua la polarizzazione, che accentua la formazione di echo chamber? Beh, ovviamente rispondi all'ovvio necessità di mercato di monetizzare l'utente, quindi la pubblicità mirata targetizzando l'utente e proponendogli i contenuti che più aderiscono e che più hanno probabilità di incidere nella sua decisione di acquistarli o meno. Quindi la segmentazione dell'utente a secondo delle sue preferenze, quindi obiettivi puramente di marketing, stiamo parlando di questo nel migliore dei casi. Certo. Dunque, Quattro Ciocchi, per chi volesse approfondire quando prevedete di pubblicare la prima release, ormai anche gli scienziati lavorano in questo modo, del vostro articolo? Conto per in un paio di settimane dovremmo essere fuori, stiamo validando alcuni modelli simulativi per finalizzare insomma il risultato, però diciamo l'evidenza empirica è netta, insomma, quindi non cambierà il risultato. Stiamo raffinando un po' la presentazione, perché purtroppo a noi ci bastonano tantissimo prima di uscire. Ricordiamo una cosa: per certi versi potremmo aver detto delle cose, come dire, che ci si poteva aspettare, ma è un conto è intuire e un conto è come dire fondare delle affermazioni su dei dati, dei numeri ben precisi. Decisamente, i sassi cascavano pure prima che Newton scoprisse certo, la legge di esatto. grazie Walter Quattro Ciocchi. Arrivederci. Ci fermiamo qui, cari ascoltatori, appuntamento a domani.